A conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. È vero oppure no che l'economia europea va male perché c'è l'euro, come sostengono i movimenti populisti ed euroscettici? Se si guarda i dati non sembra proprio che la colpa sia dell'euro, visto che alcuni paesi sono cresciuti da quando c'è la moneta unica, altri meno. Di certo si può dire che l'euro non è stato decisivo per la crescita, né in senso positivo né negativo. Eppure questo è uno dei luoghi comuni che maggiormente ricorrono nel dibattito politico europeo ed italiano, soprattutto in questo anno di elezioni, con Olanda, Francia, Germania e forse anche Italia chiamati alle urne. Ve ne sono altri? Andrea Boitani, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano, ne ha scovati, per così dire, altri sei. Eccoli: se il debito pubblico è alto, ci vuole l'austerità. L'inflazione ossessiona le banche centrali, l'Italia va male perché è poco competitiva e poi è tutta colpa delle banche e della finanza. Senza le riforme non si esce dalla crisi, per rilanciare l'economia servono grandi investimenti infrastrutturali. I sette luoghi comuni sull'economia, infatti il titolo del libro appena pubblicato dalla Terza di Andrea Boitani, che è il nostro ospite questa sera. Buonasera professore, benvenuto. Benvenuto. Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori. Ascoltiamo prima di tutto questo passaggio del suo libro relativo al sesto dei luoghi comuni che lei ha individuato, appunto quello sulle riforme. Senza riforme, lo abbiamo sentito più volte, non si esce dalla crisi. Ma non è la prima volta che si parla di riforme come una condizione essenziale per far crescere il paese. Nei primi anni 70 del secolo scorso, lo slogan ritmicamente gridato da alcuni militanti del Partito Comunista Italiano era «Lotta dura senza paura per le riforme di struttura». In realtà, la parola d'ordine delle riforme di struttura veniva da lontano. Già nel rapporto di Palmiro Togliatti all'ottavo congresso del PCI del 1956 si poteva leggere «Le riforme di struttura non sono il socialismo». Sono però una trasformazione delle strutture economiche che apre la strada per avanzare verso il socialismo. È quanto si legge esattamente 10 anni dopo nelle tesi per l'undicesimo congresso del PCI. Ancora nel 1987 il segretario della CGIL, Luciano Lama, asseriva che riforme consistono in mutamenti non congiunturali, bensì strutturali, nei rapporti tra le diverse classi sociali. Oggi l'impegno a fare le riforme strutturali è stato posto dalla Banca Centrale Europea, dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Commissione Europea come condizione per i governi di Irlanda, Portogallo e Grecia. In sostanza, professor Boitani, da Togliatti a Schäuble, potremmo dire, il ministro delle finanze tedesco che guida la pattuglia rigorista in Europa, perché questo delle riforme strutturali è un luogo comune? Ma perché essenzialmente si confonde il ruolo di lungo periodo che alcune riforme strutturali, non tutte, bisogna poi specificare bene quali, può avere con un impatto di breve o brevissimo periodo che viceversa è molto più improbabile. Quindi mettere insieme, diciamo, la prospettiva di lungo periodo con la semplice uscita dalla crisi, la ripresa, diciamo, dopo la recessione, è un errore, e questo, diciamo, è l'errore racchiuso nel luogo comune che io cerco di discutere e contestare. E poi in particolare, se ci riferiamo alla Grecia, questo è abbastanza plateale, perché la Grecia è stata sottoposta a un piano duro di risanamento e di rientro, sono state imposte delle riforme, però come è noto le riforme forse andrebbero fatte non sotto il fucile puntato di chi poi è pronto, come dire, a chiudere il rubinetto dei finanziamenti. Sì, soprattutto certe riforme non possono altro che essere fatte in un momento in cui la domanda aggregata è sostenuta in qualche modo, ma se le riforme vengono insieme a una forte restrizione della domanda, perché perché si tagliano i redditi, perché si riducono le pensioni o si riducono i diritti pensionistici o perché si licenziano i dipendenti pubblici e via di seguito, è chiaro che a quel punto l'effetto delle riforme sarà un effetto depressivo invece che un effetto, diciamo così, di promozione della crescita. Inoltre, come ho detto, le riforme hanno, quando ce l'hanno, un effetto nel lungo periodo e che è anche difficilmente quantificabile, sia come impatto sull'economia, sia come tempi in cui questo effetto si produce. Fare questo tipo di interventi quando l'economia è in piena recessione rischia di far avvitare il paese in una spirale depressiva che poi è la situazione in cui si è venuto a trovare la Grecia negli ultimi anni. Parliamo ora di un altro luogo comune di cui lei tratta nel libro, un luogo comune che peraltro ci riguarda da vicino. Se il debito pubblico è alto, ci vuole l'austerità. Ecco, questo è un tema molto molto importante per noi, professore. Sì, certamente. Questo è proprio uno di quei casi in cui si guarda alla questione più semplice, no? Dice, vabbè, insomma, se il debito pubblico è troppo alto bisogna ridurre le spese, bisogna aumentare le tasse, bisogna in sostanza ridurre, annientare anzi meglio il deficit o addirittura creare un surplus di bilancio per ridurre il debito. Ma naturalmente ciò che interessa non è il debito come grandezza assoluta quanto il rapporto tra debito e PIL. Allora, il problema è che l'austerità, la creazione di avanzi di bilancio ha un effetto anche sul PIL, oltre che sul numeratore, cioè sulla creazione di nuovo debito. E se il PIL diminuisce troppo, il rapporto invece che ridursi, il rapporto tra debito e PIL, il rapporto aumenta. E in effetti la cosa che empiricamente riscontrabile è che i paesi che hanno fatto più austerità sono quelli che hanno visto aumentare di più il rapporto tra debito e PIL. In sostanza l'austerità risulta essere controproducente sul rapporto debito-PIL. In effetti la sua tesi conferma poi quanto si dice ormai da tempo, che la via maestra per ridurre il debito è agire appunto sul denominatore, quindi far crescere di più l'economia e per tale via abbattere anche il rapporto debito-PIL. Esattamente. Viceversa, qualche volta questa idea di sottoporre i paesi all'austerità è venuta dall'idea che se non si riduce il rapporto debito-PIL i paesi non riescono più ad avere accesso ai mercati. Questo si è detto per l'Irlanda, si è detto per il Portogallo, si è detto e si è realizzato per la Grecia e si minaccia continuamente anche per l'Italia. Naturalmente questo è vero, è un problema, ma è un problema che è legato essenzialmente al fatto che si sia convinti che con una riduzione del debito si riduca effettivamente anche il rapporto, mentre così purtroppo non è. Ecco, adesso veniamo a un altro luogo comune molto interessante, che è quello in base al quale sarebbe tutta colpa delle banche e della finanza. Ecco, sì. come lo smontiamo questo luogo comune? Uno di quelli di quei luoghi comuni che si avvicinano di più in un certo senso anche a cogliere molti elementi di verità. Molte colpe sono state delle banche e della finanza, certamente nel modo e nella misura in cui si è prodotta la crisi del 2008, ma è anche vero che la situazione che si è venuta a produrre poi per le banche e per la finanza è stata in gran parte determinata dalle azioni di politica economica che sono state compiute dai diversi governi. Faccio un esempio. Sì. L'enorme aumento dei crediti deteriorati delle banche italiane. Sì, che riguarda noi in particolare. Esatto, è strettamente legato al fatto che l'Italia abbia avuto parecchi anni di crescita negativa, nonché alcuni di crescita positiva, ma molto bassa, e naturalmente questa crescita negativa o questa crescita molto bassa hanno portato al fallimento di parecchie imprese che si sono trovate così nella condizione di non ripagare o di non poter ripagare i crediti che avevano per loro debiti ovviamente nei confronti delle banche. Ecco lì che i crediti deteriorati sono aumentati in maniera straordinariamente ampia proprio a partire dal 2012 in poi, cioè quando l'Italia è precipitata nella seconda crisi e ha creato questo tipo di situazione negativa per le banche. C'è poi la questione del rapporto tra banche e debiti sovrani. Certo. Perché i debiti sovrani sono detenuti in misura molto rilevante dalle banche, soprattutto dalle banche di ciascun paese ormai dopo il 2011, e questo fa sì che il rischio dei paesi più indebitati si trasferisce direttamente sulle banche che detengono i loro titoli. Certo. E, nello stesso tempo l'annuncio della politica di Draghi nel 2012 sulle outright monetary transactions ha consentito di una forte riduzione degli spread e quindi un forte aumento del prezzo dei titoli. Quei titoli detenuti dai portafogli delle banche hanno consentito alle banche di chiudere dei bilanci non totalmente disastrosi, in qualche caso in attivo, proprio perché il valore delle attività in portafoglio era aumentato e le banche potevano vendere titoli acquistati a prezzo più basso, venderli a prezzo più alto e quindi ottenere dei profitti, dei margini da questa. Esatto. Quindi c'è uno rapporto molto stretto tra la performance delle banche e le politiche economiche, sia in senso positivo che in senso negativo. Professore, la ringraziamo molto per essere stato con noi e averci aiutato a capire bene, meglio, come orientarci nei luoghi comuni sull'economia. Buona serata. Buona serata a lei.